Ciao Radio Risacca, bentornate e bentornati a Cemento e Curcuma, alla nostra terza puntata 2.0. E ricordiamo sempre che in questa rubrica potete trovare ricette, informazioni, salute, benessere, autoproduzioni sulle nostre amiche piante. E oggi ho il piacere di avere qui con me una mia favolosa amica, Alice. Ciao Alice! Ciao Marica, grazie per la favolosa, che detto da una donna favolosa è favoloso. Grazie, ben trovata a Radio Risacca e a Cemento e Curcuma. È un piacere. In questa puntata abbiamo per voi delle informazioni molto interessanti su una pianta molto molto molto particolare. La pianta in questione è la canapa, la famosissima canapa, la famosissima Santa Maria, come si vuole dire, giusto? Giusto, perché è tutta una. Infatti, canapa sativa, secondo Linneo, è perché Linneo ha utilizzato questo sistema di catalogazione per cui la canapa è sempre canapa. Qualsiasi tipo. Non importa che sia indica, sativa o ruralis, è sempre canapa. Ok, della famiglia, diciamolo, delle Delle cannabacee. cannabacee. E dai, scopriamo insieme adesso tutte le informazioni che ci puoi donare a Radio Risacca e a tutte le persone che ci stanno ascoltando. Vai Alice, attacca. Attacco, allora, intanto diciamo che canapa sativa secondo Linneo è una grande svolta per non dividere la pianta che produce fibra da quella che produce benessere e salute. È una pianta che accompagna da millenni l'essere umano, ma fondamentalmente cominciamo a capirci qualcosa nel 64 in Israele, dove viene isolato il THC. In realtà Quindi questo. è una pianta, come abbiamo detto, molto molto antica, addirittura dal 64 abbiamo scoperto le prime nozioni, ma veniva usata già anticamente, giusto? Sì, comunque accompagna l'essere umano in diverse rappresentazioni nell'arco della storia umana, quindi assolutamente sì. È solo per cominciare a definirla come uomo moderno, in realtà la storia è talmente breve che noi ancora poco ne sappiamo di questa pianta, nel senso che Certo. al momento noi abbiamo 77 principi riconosciuti, più o meno, bisogna pure aggiornarsi. Su oltre 750 principi attivi notati, per non parlare di quello che ancora non abbiamo capito bene. Ok, e possiamo dare una delucidità, vabbè, qua mi avete capito, di questi principi attivi? Certo, perché il THC è sicuramente il più famoso. Ok. E adesso c'è tanto l'erba CBD, quindi una variante. Famosa la variante light, e poi sta cominciando a nascere così verso il CBG e il CBN. Diciamo che il THC è la parte più stimolante per il sistema nervoso, il CBD è più un mio rilassante, il CBG in realtà sembra essere il precursore di altri cannabinoidi. Infatti, durante l'analisi la sua percentuale si trasforma man mano che aumentano le altre. E il CBN sarebbe il prodotto della degradazione, sia dell'invecchiamento, di tutti questi altri principi attivi che tutti insieme collaborano per far di questa pianta un Un grande bel, compagno. una grande compagna, un grande alfabeto di principi attivi, soprattutto, vero? Un bel casino che ancora dobbiamo ben capire. Che ancora dobbiamo ben capire, ma noi un po' abbiamo capito, quindi riusciamo a tirar fuori delle informazioni che comunque possono aumentare la salute e possiamo trarre trarne dei benefici soprattutto. Quali tra questi, per esempio, cosa ci puoi dire? Dunque, il THC è già ampiamente utilizzato nella prevenzione degli attacchi epilettici, okay, nel morbo di Parkinson e nel trattamento dei dolori post traumatici, sia nell'essere umano che nel cane e nel gatto. Quindi è una pianta super versatile che possiamo usare tutti e tutte, e anche i nostri amici a quattro zampe possono trarre i suoi benefici, perché ecco, è una pianta ricchissima, ricchissima, ricchissima di benefici. Possiamo anche, per esempio, dall'olio dei suoi semi possiamo ricavare tantissimo omega 3, e sia in uso alimentare che in uso atopico. Quindi se vi capita di avere dell'olio di CBD o di rimediare dell'olio spremuto a freddo, potete assumerlo in qualsiasi momento e vi farà bene, vi farà benissimo. Poi Alice, che altro ci puoi dire? Abbiamo scoperto anche le nozioni per esempio legali, dal punto di vista legale. Cosa abbiamo scoperto negli ultimi anni? Cosa è successo nei confronti di questa pianta? Allora, in questo momento si stanno muovendo molto le leggi, sia italiane che a livello internazionale, quindi è assolutamente da far notare come l'ONU nel 2020 ha spostato il THC dalla tabella 4 degli stupefacenti alla tabella 1 delle piante mediche. Questo non significa che il THC adesso è legale, ma che viene riconosciuta la sua importanza medica, per cui negli scambi internazionali non verrà penalizzata come se stessi trasportando l'oppio per la Bayer. Droga? Come se stessi... L'oppio da Bayer. Sì, diciamo che a livello legale adesso ci sono delle piccole sfaccettature dove noi possiamo ricavare molto più facilmente il beneficio di questa pianta. E infatti c'è anche dal 2017 un approfondimento della legislatura sulla canapa farmaceutica, quindi la marijuana medicale, veramente effettivamente prescritta da un medico. E io, visto che non sono né un avvocato né una farmacista, vi direi che in questa legge, delibera 1815, c'è scritto che la canapa dovrebbe avere un prezzo consigliato e oscillante intorno ai 9 euro a grammo, mentre adesso se vai nelle farmacie e acquisti la marijuana che ti ha prescritto il medico, per esempio per prevenire l'epilessia, ti danno il Bedrocan a 25 euro a grammo. Che cos'è? Spieghiamolo, che cos'è il Bedrocan? Il Bedrocan, spiegacelo. Dunque, in Italia viene prodotta... Spiegamelo, che cos'è? Allora, intanto io vorrei che ci arrabbiassimo perché la legge dice 9 e non 25 euro al grammo, perché non è affrontabile. Che cos'è? Effettivamente sono infiorescenze di marijuana, di erba, un alto contenuto di THC che viene prodotta sotto il controllo dell'esercito italiano, in questo caso i campi sono a Firenze da noi. Spoiler. Per essere appunto prescritti a persone con gravi problemi di emicrania piuttosto che epilessia, dicevamo prima Parkinson, eccetera. E praticamente, tra l'altro, curiosità, l'offerta della produzione fatta a Firenze dall'esercito italiano non basta alla richiesta del mercato italiano, quindi lo Stato ogni tanto rinciccia, compra la marijuana dall'Olanda o dalla Germania. Quindi, se ti va bene, il Bedrocan potrebbe essere anche un erbone fantastico, ma 25 euro a grammo anche no. E sembra, questo riporta di nuovo un po' esagerato, giusto per ritornare sempre nel profitto. Al mercato nero anche, perché la maggior parte delle persone non se lo può permettere, quindi tengono la ricetta, comprano il Bedrocan e poi dentro al barattolino ci mettono quello che comprano al mercato nero, perché non puoi effettivamente come malato affrontare spese del genere. Affrontare spese come 25 euro al grammo, che fondamentalmente non è niente. Bello, delle nozioni super interessanti e molto, molto ricche. Ci stiamo aprendo di fronte a un mondo dove questa pianta sta prendendo veramente piede negli ultimi anni, dove comunque ci sta sempre di più una speculazione, come sempre, come hanno fatto con tante piante sulla faccia della terra. Comunque, ecco, lo schifo di questo mondo è che dalla natura si continua a speculare. Questa comunque è una cosa orribile. La cosa bella è che comunque, ecco, coltivatela a casa. Un consiglio, cioè comunque non penso che vi arresteranno, giusto? Quanto è un Dunque, limite. Purtroppo in questo momento è tutto in mano al giudice che ti trovi davanti. Abbiamo dei precedenti che indicano come due piante sul balcone realizzate con mezzi, com'era? Grezzi. Grezzi. Dice. Mezzi. Nel senso, non ti fai il diciamo che un giudice si è pronunciato nei confronti di due ragazzi dicendo vabbè, c'hanno due vasi su un terrazzo, si può fare. Non è che questa è legge, è un precedente per il prossimo processo. Se becchi un giudice che gli gira dall'altra parte, fa come vuole. Però ecco, intanto già differenziare dall'avere due piante rispetto a un indoor da produzione è importante, perché questa è una pianta che effettivamente potrebbe salvare sia noi che l'habitat a noi favorevole, certo, purificando e ribilanciando rispetto alle nostre necessità di esseri umani. Purtroppo Non è utilizzata in questo modo, quindi noi ritroviamo i soliti meccanismi di pesticidi, fungicidi, fertilizzanti chimici, assolutamente nelle serre con le lampade. Non esiste il biologico con le lampade, perché la trasformazione della temperatura e della luce ha troppo impatto sulla pianta stessa, sul mondo, perché non puoi fare serre e dire che bello, io sono bio. No, c'hai le serre accese, non sei bio. Non sei assolutamente bio. Poi dal momento che ti passano sopra la testa centinaia di elicotteri e comunque il campo a fianco a te magari spara pesticidi una volta a settimana, purtroppo ormai in questo mondo non c'è più niente di bio, a meno che non te lo fai sul giardino o comunque sul terrazzo di casa tua. Lì possiamo dire che veramente è roba nostra, quindi dovremmo anche un po' combattere queste guerre che lo Stato ci impone, quali sia curarci con le nostre amiche piante, dare comunque l'opportunità a tutti di creare il proprio giardino. Il fondamentale è per esempio lo scambio semi. Io tendo a portare la canapa allo scambio semi, vi consiglio di scambiarvi semi fra amici di tutte le piante, non solo di quelle, tant'è che io ho addirittura una curcuma che mi ha dato Marica, che è su una piattaforma di cemento, quindi è curcuma e cemento, e cerchiamo di mettere più verde possibile, sì, in questo mondo. In questo mondo, mettiamo radici. Grazie Alice, tutte queste informazioni spero che ragazze e ragazzi possiate assorbirle il più possibile. E dopodiché adesso vi doneremo una ricettina proprio a base di canapa, super particolare, deliziosissima, consigliatissima soprattutto. Dunque, vai. Io questa la chiamo chai l'erba. In realtà è un tè alle erbe fatta sotto consiglio di un farmacista per averne effetti benefici di rilassamento e ampliamento del. E niente, quindi lui consigliava 70% di acqua e 30% di latte vaccino. Diciamo, il THC, la maggior parte dei principi attivi e della resina della canapa marijuana. Possiamo dirlo, possiamo dirlo, marijuana, secondo nome marijuana, sono liposolubili, quindi gli serve, gli fa comodo avere un grasso a cui legarsi per staccarsi meglio, quindi estrai tutto di più. E in questo caso lo metti in immersione, le cimette in questa soluzione, che può essere anche di latte vegetale, a quel punto non ti conviene aggiungere acqua perché tanto è già quasi tutta acqua, Tieni coperto mentre lo lasci sobbollire, come si fa il chai fondamentalmente, cioè il latte sta lì, sobbolle e fa una cremina con le spezie, che in questo caso è la spezia. E il chai all'erba è anche ottimo per i dolori reumatici, artritici, post-traumatici, quelli che, con cui convivi, perché zittisce il sistema, l'apparato nervoso, rilassa i muscoli. È molto rilassante, diciamolo, quindi è proprio una versione, una botta, sì, una botta di relax, una coccola soprattutto, perché in questo periodo freddo bere una cosa calda è la cosa più bella che ci può essere al mondo. Se volete ci potete aggiungere anche un pizzico di cannella in modo che vi scaldi ancora di più il cuore. E normalmente l'ingestione per bocca comunque è più rilassante, quindi vi auguriamo anche sogni d'oro se avete problemi a dormire con tisanone c'hai all'erba. Lattuccio c'hai all'erba. E fantastica, questa è una ricetta che io proverò personalmente, spero lo facciate anche voi. E ci sono dei metodi di conservazione di cui volevamo parlare, sì, sì. Pure quello è interessante. Dunque, sempre dai miei le mille domande che pongo a farmacisti e agronomi, mi è stato indicato. Allora, il prodotto essiccato, la conservazione migliore è 19 gradi, simile al vino rosso che è tipo 18. Invece, per quanto riguarda l'olio medicale, è consigliato tenerlo in frigo, anche se non è specificato, ne aumenti le proprietà assumendolo da freddo. E per esempio, anche quando è in forma idroalcolica, si può mettere in congelatore prima dell'assunzione. E addirittura si consigliano i grinder, detti grinder, truzzo, ho detto anche il truzzo, tu te lo ricordi il truzzo? No, io il truzzo... Non lo chiamavate truzzo? No. No, ultimamente invece... Il grinder, truzzo. Il grinder, sì, si chiama anche truzzo. Sì. Ma allora, il truzzo, se lo appicci in congelatore, cioè dopo ti sballa ancora di più, perché tu durante la frizione del metallo che è congelato del truzzo, allora tu vedrai che non spazza nessun principio attivo e quindi avrai tutti i principi attivi e i terpeni al massimo stiracchiati, quindi addirittura viene suggerito metallo e Pyrex e addirittura freddo. Ottimo, cioè penso che fatelo ragazzi e conservazione soprattutto, scambio di semi soprattutto, di qualsiasi sia la pianta, scambio di piante, iniziamoci a scambiare anche le piante per chi ha l'opportunità di mettere una pianta nel proprio giardino, ma anche in vaso, basta che gli date amore, acqua e sole. E sì, speriamo che questa puntata vi sia stata utile, vi sia piaciuta. Come sempre c'è l'invito aperto a qualsiasi informazione, a qualsiasi confronto, a qualsiasi tipo di domanda, si può rispondere, scriveteci. E adesso ci salutiamo! Ci salutiamo, lo faccio. Lo fai, fallo. Ciao Radio di Sacca a tutti quanti, anche grandi ragazzi che proseguite con mille progetti per localizzare anche l'informazione. Sì, grazie Alice, grazie per essere stata qui con me e per averci donato questo sapere. E niente, vi salutiamo. Ciao, ciao. Radio di Sacca. Ciao ciao.